passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39 minuti, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it, i titoli del TG2. Berlusconi torna all'Aquila, sorvola in elicottero i nuovi cantieri, entro settembre le prime case per gli sfollati, scommessa vinta, ce la faremo. Quinto giorno di proteste in Iran, migliaia ancora in piazza per Mousavi, rischia la pena di morte chi provoca disordini. Pasdaran contro internet e giornalisti, Ahmadinejad, il popolo è con noi. Una telefonata pochi giorni fa della ragazza di 12 anni scomparsa con la madre a Gradoli nel Viterbese, ancora mistero, resta l'inchiesta per sequestro. Consegnato alla Spezia il primo dei 3 cacciamine commissionati dalla Marina finlandese, settore navale che vede il primato della tecnologia italiana. Per portare in vacanza il cane quest'anno più possibilità scompartimenti sui treni, molti più alberghi li accettano, ecco poi le spiagge senza divieti. Mi sembra di non aver sentito nessun titolo sull'ultima vicenda, l'inchiesta che si sarebbe aperta a Bari e che coinvolgerebbe anche, pare ancora non l'inchiesta vera e propria, comunque il Presidente del Consiglio. Ragazze che sarebbero state portate a pagamento a Palazzo Grazioli, c'è un'intervista, come sapete, di cui parlano tutti oggi, di una di queste, tra l'altro una candidata in una lista collegata al PDL a Bari, sul Corriere della Sera. Ma andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. Iran, ecco i video di morte censurati dal regime islamico, la protesta si estende nelle piazze, gli studenti aggirano il blocco mettendo su internet le immagini della repressione, ma il governo vuole chiudere i siti, poco fa nuove manifestazioni, aggiornamenti in diretta. Solo spazzatura, non mi farò condizionare, durissimo commento di Berlusconi alle ultime indiscrezioni su un'inchiesta aperta a Bari. Il premier è in Abruzzo per visitare i cantieri della ricostruzione, slitta la prossima settimana il via libera definitivo al decreto terremoto. Ancora sequestri di pellet in tutta Italia, Savona bloccate... E a proposito dell'inchiesta di Bari, sicuramente la notizia del giorno, ricordandovi sempre il numero per intervenire, 800 24 00 24, sentiamo per riassumere, perché la vicenda è complicata, non tutti hanno potuto seguirla, vi leggo semplicemente il titolo del Corriere Online in questo momento, perché è il Corriere che l'ha lanciata oggi: misteri e sospetti dell'inchiesta di Bari, Berlusconi non mi farò condizionare, nuovo filone, un imprenditore pugliese parla al telefono di feste con le ragazze del Cavaliere, feste in cui queste ragazze sarebbero state pagate fino a 2.000 euro. Una di queste poi viene intervistata dal Corriere della Sera e dice di essersi trattenuta anche una notte a Palazzo Grazioli. Il servizio di Sky. 31 maggio scorso, il premier Silvio Berlusconi è a Bari per la campagna elettorale. A salutarlo al suo arrivo nell'immancabile bagno di folla c'è anche questa ragazza, che 17 giorni dopo si affaccia alla ribalta mediatica con un'intervista al Corriere della Sera. Patrizia Daddario, questo è il suo nome, racconta di aver partecipato a 2 feste a Palazzo Grazioli, residenza del premier, dove in una circostanza, era la sera dell'elezione di Obama precisa, avrebbe trascorso anche la notte. Ma la Daddario specifica soprattutto di aver ricevuto un compenso economico per le serate, pattuito con un noto imprenditore barese che avrebbe fatto da intermediario. La versione della ragazza, candidatasi senza successo nelle ultime elezioni comunali in una lista di centrodestra, è naturalmente tutta da verificare. Sa che l'imprenditore da lei tirato in ballo, da qualche mese, assieme al fratello, è al centro di un'inchiesta della procura del capoluogo pugliese. Il PM Giuseppe Scelsi, che la coordina, oltre a voler verificare la regolarità degli appalti vinti dalla loro azienda, che opera nel settore delle tecnologie ospedaliere, sta cercando di fare chiarezza su alcune telefonate dello stesso imprenditore citato dalla Daddario, nelle quali si farebbe riferimento proprio alle ragazze da far partecipare alle feste organizzate quasi ogni martedì a Palazzo Grazioli. Il reato ipotizzato per questo filone dell'inchiesta è l'induzione alla prostituzione. Questa mi sembra la cronaca senza nessun commento, direi precisa, perfetta, di un servizio di Sky. Berlusconi ha parlato di spazzatura, come sapete, è stato coinvolto in questa intervista della Daddario anche Tato Greco, che è un deputato della Repubblica, nipote di Matarrese, il quale avrebbe avvicinato la stessa Daddario proponendogli una candidatura. Lo stesso Tato Greco smentisce. C'è una parte che è vera, che lei è candidata con la Puglia prima di tutto, non è stata mai cercata, anche perché io non l'ho conosciuta prima del giorno in cui si è recata a lei personalmente al partito regionale della Puglia prima di tutto. Ha chiesto di candidarsi perché voleva impegnarsi in politica come quota rosa, ha presentato il suo curriculum, un curriculum che a me sembrava abbastanza pulito, una donna intraprendente, impegnata nell'imprenditoria, stava realizzando un'opera sulla città di Bari, un edificio, si è definita anticomunista per eccellenza, ha dichiarato addirittura di essere contro il sistema politico e programmatico che aveva creato Michele Emiliano e la sua giunta a Bari, e per questo voleva scendere in campo. Questo Tato Greco, che è un deputato, è una storia molto complicata, avete sentito. Sentiamo lo stesso Greco dire qualcosa a proposito dei voti presi da Patrizia Daddario. Abbiamo fatto firmare una richiesta di accettazione, dopodiché alla chiusura, quasi alla chiusura delle liste, tre giorni prima le abbiamo detto che poteva stare in lista, si è candidata, ha ricevuto 7 voti, tra l'altro evinco anche dalla stampa, lì dicevano di aver fatto campagna elettorale, di essersi ritirata, quindi non si è ritirata, non è mai arrivata una lettera da parte di questa signora di un'intenzione di ritiro da parte della lista, anzi ha fatto campagna elettorale come l'hanno fatta tutti quanti, ha esposto i manifesti che sono ancora per Bari, e dopodiché noi non abbiamo più tracce di questa signora, al di fuori di stamattina ci siamo svegliati e abbiamo appreso che addirittura questa signora conosce me da diversi mesi, non lo so, da anni, io non l'ho mai conosciuta prima del mese di marzo in cui si è recata al partito. Bene, alle 18.45, se ci avete capito qualcosa chiamateci, io ho ancora moltissimi dubbi su questa vicenda, lo stesso Corriere della Sera ha dei dubbi sulla versione della Daddario pur pubblicando la storia, ci sono molte speculazioni politiche, non so se interessano gli ascoltatori, però c'è chi pensa che questa vicenda, questo filone giudiziario barese sia stato anticipato nei giorni scorsi da Massimo D'Alema. Risentiamo l'audio di D'Alema dei giorni scorsi. Io penso che la vicenda italiana potrà conoscere delle scosse, non c'è dubbio, anche perché Berlusconi non è un uomo che accetti volentieri l'idea di un suo declino politico, umano, che poi sarebbe nell'ordine naturale delle cose. La parola perché scosse finisco... sta per? La parola? Scosse sta per? Scosse, proviamo a elaborare cosa sono le scosse. Momenti di conflitto, momenti di... Queste erano le scosse di D'Alema, va bene. Dicevo che c'è molta speculazione politica, forse troppa dietrologia in questi giorni. Il direttore di Europa, Stefano Menichini, buonasera. Buonasera a voi. Senta, lei quando ha letto questa intervista di Patrizia Daddario sul Corriere della Sera questa mattina, cosa ha pensato? Intanto che ho sperato fortemente che tutto questo non sia vero e ho pensato che questa ragazza sia una figura molto diversa dalla giovane Noemi, cioè una donna molto smaliziata e potenzialmente, per come lei stessa presenta la sua vicenda, è una donna abbastanza pericolosa, anzi lei, credo, ho l'impressione che carichi anche volutamente su questo suo elemento di pericolosità nei confronti di Berlusconi. Potenzialmente una ricattatrice, sì. Che è un po' la percezione che abbiamo tutti di questa vicenda, laddove ovviamente la prima domanda che uno si pone quando ha a che fare con un ricatto è se ci sono elementi per un ricatto, cioè se la persona che è soggetta, che è vittima di questa cosa odiosa, sia ricattabile o meno. Poi il secondo elemento di valutazione naturalmente è stato il luogo dove ho trovato questa intervista, perché il Corriere della Sera non è stato parte del famoso terribile complotto del gruppo Repubblica Espresso, sì, contro, sì, Berlusconi, anzi ricordiamo tutti la prudenza di Ferruccio De Bortoli nei primi giorni di quando esplose questa vicenda, la sua intervista con Berlusconi, sia quella televisiva che quella sul giornale. E voi conoscete De Bortoli molto meglio di come lo conosca io, e credo che prima di mettere in prima pagina, come ha fatto l'intervista di una, fatta peraltro da una bravissima collega della giudiziaria come Fiorenza Sarzanini, abbia valutato, atteso per quello che si sa, atteso anche molto, e forse diciamo si sia dotato di qualche riscontro ulteriore che non le parole di questa donna. Sì, che dice di aver registrato tutto, anche se devo dire che nell'intervista della Sarzanini, come molti di quelli che l'hanno letta hanno notato sicuramente, si mettono ogni tanto dei dubbi sulla versione di questa donna, e l'intervista non è in realtà in prima pagina, cioè non c'è una citazione in prima pagina, c'è in prima pagina invece la notizia dell'inchiesta. Fosse vero, posso dire che questi elementi che tu citi, cioè non il titolo che diciamo così è sulla notizia secondaria di quella di quella intervista, e le domande hanno quel carattere che tu giustamente hai rilevato. Mi hanno rafforzato l'impressione che mi ha fatto quell'intervista, cioè come se non, diciamo, il Corriere della Sera non sia andato in cerca di uno scandalo e di una cosa, no, questo è vero, sì, certo, gratuita contro Berlusconi, ma prendendo tutte le misure del caso abbia comunque deciso di utilizzarla. Sì, no, ma questo non c'è dubbio, no, ma non volevo assolutamente fare nessun appunto al Corriere della Sera. L'unica, un'altra cosa che mi è venuta in mente è che è la questione che tu hai citato all'inizio, cioè la questione della ricattabilità. Ora non è così che si fanno i ricatti pubblicando delle interviste su Corriere della Sera, evidentemente i ricatti in questo caso sono stati forse già consumati, o forse, esatto, sono falliti. Tentati e falliti. Il fatto che delle persone possano essere, perché c'è una possibile inchiesta per induzione alla prostituzione che sembrano riguardare il Premier, ma questi imprenditori che avrebbero portato anche in Sardegna o a Roma delle persone. Fosse vero che delle persone vengono pagate, non sappiamo se all'insaputa o con la consapevolezza di Berlusconi, per andare a Palazzo Grazioli, la cosa sarebbe molto grave secondo te? Guarda Cruciani, diciamo un'inchiesta, noi sappiamo bene che la prostituzione non è un reato, i clienti delle prostitute non commettono un reato, commettono un reato coloro che agevolano, organizzano, sì, i giri di prostituzione, quindi tecnicamente quello che hai detto è giusto. Quando l'avvocato Ghedini oggi pomeriggio, senatore Ghedini oggi pomeriggio, ha detto questa stessa cosa, che fa parte del diritto per come lo conosciamo tutti quanti, un po' mi si sono drizzati i capelli in testa, confesso, perché lui escludeva che l'evento avesse un fondamento, ma il fatto di rimarcare che però comunque il Presidente del Consiglio non sarebbe stato soggetto di indagine perché sarebbe stato eventualmente soltanto cliente, anzi lui ha detto utilizzatore finale. Sì, sì. E, insomma, mi ha un pochetto spaventato. Io sono molto preoccupato da un aspetto, cioè questo è il Presidente del Consiglio. Io ho l'impressione che nella sua vita privata, di cui abbiamo fatto una volta già questa discussione, sì, mi sembra, con te, lui sarebbe teoricamente libero di fare quello che vuole e di avere tutti i rapporti personali che vuole. Nella sua vita privata però, in tutta evidenza, a questo punto questo lo possiamo, forse possiamo convenire su questo, ci metto anche i 5.000 scatti di Villa Certosa e via discorrendo, non vengono osservati i criteri minimi di prudenza e di questo sicurezza, non c'è dubbio, anche secondo me non c'è dubbio, che andrebbero osservati da persone, da statisti che hanno anche incarichi molto meno importanti. Assolutamente, a prescindere da come finirà questa vicenda, è la prima volta che c'è una persona che dice, tra l'altro, di aver registrato delle cose, poi naturalmente si verificherà, magari sarà una totale millantatrice, di aver registrato delle cose e di avere passato una notte a Villa Certosa da sola. Insomma, ci sono delle cose leggermente più concrete di quelle che abbiamo letto finora, leggermente più concrete, poi naturalmente tutte da verificare, per carità, certo. Però guarda, sappiamo tutti, perché abbiamo molte testimonianze su questo e non sono mai state smentite, peraltro anzi vengono avvalorate anche dagli estimatori di Berlusconi come un suo elemento positivo, che a Palazzo Grazioli ci sono questi ricevimenti, queste feste private, sì, partecipano, sì. Berlusconi ama circondarsi di giovani, ragazze, giovani, diciamo, poi ci fermiamo qui, e questo diciamo è acclarato. Questo diciamo così comportamento privato e non sindacabile, però evidentemente ha sconfinato sotto il profilo della prudenza, perché poi se una persona può di queste qui. L'Unità aveva già pubblicato testimonianze di altre ragazze che pure raccontavano vicende analoghe. Testimonianze anonime però, quelle. Sì, anonime, senza portare, senza aver registrato nulla. Sì, la prudenza, l'elemento della prudenza, questo è interessante. Insomma, francamente sì. Grazie, buona Prego, serata. Grazie. Buon lavoro. Andiamo subito con i titoli del TG3. Appalti sulla sanità in Puglia e feste private in casa del premier. Berlusconi sulla stampa, ancora spazzatura, non mi farò condizionare. PDL, chi ha parlato di scosse sapeva, è un complotto. D'Alema, falso, ma Berlusconi risponda. Franceschini, dal premier solito copione. L'opposizione iraniana sfida il regime e torna in piazza. Il procuratore minaccia pena di morte per i leader della protesta. Da Obama la più grande riforma dei mercati finanziari dal 29, nuovi poteri alla Fed, arriva il super poliziotto in difesa dei risparmiatori. PIL picco meno 5,3%, deficit in crescita al 6%, previsioni fosche dell'Ocse per l'Italia, ripresa molto lenta. All'Aquila il 70% degli sfollati è rappresentato da anziani, nelle tendopoli sono più di 4.000 le prese con disagi e solitudine. 140.000 sfratti l'anno scorso, in gran parte per morosità, secondo le associazioni degli inquilini sono destinati ad aumentare con la crisi. Cristiano De André canta per la prima volta le canzoni del padre Fabrizio, una tournée che comincia il 30 giugno da Torino. C'è questo modo ogni tanto di dipingere la realtà da parte di alcuni organi di stampa che è incredibile. E sotto le tende disagi e solitudine, beh, voglio vedere, voi conoscete qualche posto dove si è verificato un terremoto di tale portata, nel quale successivamente si viva in modo straordinario? Ci sono mesi e mesi in Italia, forse passano anche degli anni, di disagi, di situazione molto complicata, e non c'è nessuno che possa fare qualcosa per rimediare a questa situazione, nessuno. I titoli di Sky. Feste, ragazze, voci di un'altra inchiesta su Berlusconi che commenta spazzatura. Il PDL lo accusa di preveggenza, D'Alema risponde: io non manovro le procure. Abruzzo, il voto alla Camera sul decreto per la ricostruzione slitta a martedì prossimo. Iran, il popolo anti-Ahmadinejad sfida divieti e regime, fiume umano in strada. Ocse, doppia stoccata all'Italia, PIL previsto in calo di più di 5 punti. Anche il rapporto sulla scuola ci boccia, i nostri studenti sono fra i più scarsi. Rom ucciso dalla camorra a Napoli, la moglie accusa, nessuno ci ha aiutato. Rumeno abbandona un cane ferito alla stazione Termini, la folla lo blocca. Obama schiaccia Mosca, ma non è guerra fredda, curioso fuori programma in TV. Vigilia di Italia-Egitto, 3 anni dopo un altro Zidane sulla strada degli azzurri. Allora, 800 24 00 24, se volete estraniarvi dalla vicenda da Dario, la nuova Noemi, seppur molto diversa, come avete ascoltato prima, vicenda con l'inchiesta di Bari, l'inchiesta anche, sembra, per induzione alla prostituzione, i festini e le feste a casa del premier a Palazzo Grazioli. Se volete estraniarvi, dicevo, da tutto questo, c'è certamente il rapporto dell'Ocse sul nostro sistema educativo, sulla nostra scuola, che è clamoroso. Nonostante la spesa per studente sia molto elevata, i risultati però sono fra i più modesti. Nonostante la spesa per studente sia molto elevata, e poi esistono forti differenze regionali. Se volete parlare di altro, ci sono tutte le notizie che avete ascoltato, però vi facciamo sentire la polemica intorno all'inchiesta di Bari tra PDL e D'Alema, perché qualcuno dice: D'Alema sapeva tutto quando parlava di scosse. Sentite il coordinatore, uno dei coordinatori del PDL, Verdini. Il solito sistema: prima si tira il sasso e poi si toglie la mano. D'Alema insinua a mezza bocca e poi dice che parlava di questioni politiche. Poi si viene a sapere che la procura di Bari è stata anticipata dalle sue dichiarazioni. Anche noi vorremmo fare tante domande all'onorevole D'Alema. La risposta dello stesso D'Alema. Se qualcuno ha il coraggio di dire che io manovro le inchieste giudiziarie, lo denuncio, perché è un mascalzone e un bugiardo. In qualsiasi paese normale il capo del governo a cui si rivolgono quelle accuse risponde e chiarisce, cosa che Berlusconi non ha fatto nella vicenda Noemi, dopo aver annunciato che lo avrebbe fatto, e adesso, di fronte ad un'altra vicenda di cui io nulla so, nulla sapevo, diciamo, che viene sollevata dal Corriere della Sera, vengo messo sotto accusa io. Beh, insomma, è incredibile, è uno scandalo. Questo D'Alema al TG3 poco fa, alle 19.23, restiamo su questo affair se volete. Berlusconi oggi in un'intervista a Teleuniverso, emittente laziale a Frosinone, sta facendo un tour elettorale per i ballottaggi come tutti i politici. Peraltro Berlusconi specifica cosa intendeva dire quando ha parlato di piano eversivo, sentite. Io non ho mai parlato di oscuri complotti, ho parlato con assoluta chiarezza e precisione di un chiaro attacco al Presidente del Consiglio, un chiaro progetto eversivo messo in atto da un gruppo editoriale schierato a sinistra e con la connivenza della sinistra. C'è da dire che la notizia di oggi dell'inchiesta di Bari e l'intervista a Patrizia D'Addario sono state pubblicate sul Corriere della Sera. Berlusconi, in questa intervista a una televisione privata del Frosinone, Lazio, cosa dice? Dice anche che c'è una differenza antropologica con la sinistra, credo si riferisca, non so, al PDL, a se stesso. Sentiamo. Io credo che i cittadini abbiano avuto modo di dare il loro giudizio sulla diversa natura di noi e di loro. Io sono arrivato a credere che ci sia veramente una differenza antropologica tra noi e loro. Noi siamo quelli che guardano alle cose concrete, siamo gli uomini di buona volontà e di buon senso, non siamo malati di invidia personale mai e non siamo malati di odio politico. Dall'altra parte ci sono invece tutti coloro che hanno questa malattia e che si riconoscono in questa sinistra, che è quella sinistra con cui purtroppo noi ci troviamo a dover operare. Ciascuno dovrebbe fare un esame di coscienza e dire io da che parte sto. Se sto di là, va bene, guardati nello specchio e giudicati. Beh, insomma, questa susciterà ulteriori polemiche anche questa cosa. Se uno è di là, cioè se uno sta con la sinistra, si dovrebbe guardare nello specchio e giudicarsi, evidentemente giudicarsi molto male secondo Berlusconi. Alle 19.25 qualche secondo di Beppe Grillo, un Beppe Grillo al giorno toglie i pensieri di torno, oppure fa venire tanta rabbia, oppure non so, fate voi. Lo abbiamo beccato, almeno questo audio, credo che fosse ieri da qualche parte, fuori da un, non so, adesso poi mi direte, che parla di golpe dal suo blog, anzi, semplicemente dal suo blog, sì, però era da qualche parte, o forse no, era in macchina, che stava facendo? Vabbè, poi mi dite. Grillo che parla di golpe, sentite. Golpe, ma è possibile? Io non riesco a raccapezzarmi. Tutte le volte che Berlusconi fa un discorso pubblico circondato da 20 guardie del corpo e centinaia di carabinieri e poliziotti parla di golpe. D'Alema oggi è preoccupato, bisogna stare pronti. Signori, o le parole non vogliono più dire niente o c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano. Guardate che, pensate un po' se Obama oggi parlasse di colpo di Stato negli Stati Uniti, cosa succederebbe? Qua se ne discute sui giornali così, magari in terza pagina. Guardate che stanno succedendo cose incredibili. Ci sono degli uccellini dietro, questo audio preso dal blog di Grillo, c'è Grillo che parla da dietro le sbarre. Secondo me non ha capito niente di quello che sta succedendo, perché primo nessuno ha parlato di golpe o di colpo di Stato, assolutamente nessuno. E continua a non capire nulla perché sentite la questione dei generali. Io mi rivolgo a voi, generale Siazzu dei Carabinieri, mi rivolgo a lei, Castagnetti, generale dell'esercito, mi rivolgo a lei, Manganelli, un nome spaventoso, capo della polizia, dovete fare qualcosa voi. Se Berlusconi parla di colpo di Stato, non bisogna prenderla sotto gamba, perché lui generalmente attribuisce agli altri quello che vorrebbe fare lui, bisogna che interveniate voi. Va bene, credo che scherzasse, forse no, ma secondo me se non scherzava non ha afferrato bene la questione non del colpo di Stato, bensì del piano eversivo. Marco da Treviso, buonasera. Sì, buonasera. Beh, prima di tutto Grillo forse dovrebbe cambiare spacciatore, penso. Perché... Beh, Marco, adesso non esageri. Non esageri di par suo, Marco. Ma si prende la responsabilità di quello che ha detto, dovrebbe cambiare spacciatore, insomma. Sì, dai. Vabbè, parlando di libertà di stampa, ricordo questo inverno che abbiamo passato a sentire che addirittura le cariche, i movimenti sulle poltrone dei maggiori giornali d'Italia, dal Corriere della Sera al al Sole 24 Ore venivano decise dall'alto, e De Bortoli quindi era un uomo messo lì dal potere. Addirittura nel Corriere della Sera, nel patto di sindacato era entrata Mediobanca, in Mediobanca è entrata Marina Berlusconi, per cui il Corriere della Sera non sarebbe stato più libero di scrivere quello che voleva. Qualcuno ha detto anche questo, Marco, è vero. Sì, e quindi ha falsa delle mani legate di Ferruccio De Bortoli. Oggi abbiamo visto che alla faccia del Corriere della Sera ha servito a Berlusconi, insomma, o comunque quindi, in cui gli azionisti vicini a Berlusconi possono mettere becco e decidere le inchieste come vengono fatte. Io sono lettore anche del Sole 24 Ore, assicuro tutti che Riotta non è assolutamente sulla linea di difesa del Premier. E vabbè, detto questo, la verità sta dietro l'angolo, prima o poi emerge, e quindi Ferruccio De Bortoli è un giornalista libero, fa quello che gli pare, come è giusto che sia. Tutto qua. La ringrazio, Marco. A proposito dell'intervento prima di un ascoltatore che diceva, beh, la dimostrazione è che il Corriere della Sera in realtà poi non è quello che viene ogni tanto descritto, un posto in cui recentemente sono entrati imprenditori o persone vicine al Presidente del Consiglio, dunque ha una posizione nei confronti di Berlusconi di accondiscendenza o comunque di simpatia. Per me insomma, sono dei ragionamenti incredibili. Comunque l'ascoltatore giustamente ci faceva notare alcune cose. Abbiamo ripescato una conversazione, un mezzo litigio nell'ultima puntata di Anno Zero tra Santoro e l'avvocato Ghedini. La voce che sentirete all'inizio è quella di una radicale, Innocenzi. Andiamo. Bisognerebbe ammettere che in Italia c'è un grossissimo problema di informazione e di libertà di informazione. Parte dalla RAI, visto che è occupato dai partiti, il Corriere della Sera è al servizio di Berlusconi. Va bene, va bene. Ma io non ho parlato di Corriere della Sera, ho detto Bruno Vespa era la porta. Era lì. Servizio no, però negli ultimi tempi, sì, proprio dobbiamo ragionare serenamente. Gli ultimi tempi ci sono state delle novità nel patto di sindacato del Corriere della Sera. Secondo lei i giornalisti, tutti i giornalisti del Corriere della Sera prendono ordine dal patto di sindacato, glielo andiamo secondo a dire me, al secondo della me sera. È importante che nel patto di sindacato del Corriere della Sera, cioè l'editore del Corriere della Sera, comprenda anche da un po' di tempo a questa parte Mediobanca, in cui è presente il nostro Presidente del Consiglio con le sue aziende. E secondo lei questo influenza il Corriere della Sera? Secondo l'universale pensiero del giornalismo mondiale, che ritiene la proprietaria influente sul comportamento, la proprietà influente sul quindi comportamento. Quindi vuol dire che Repubblica, l'Espresso, in America, questi giornali qui sono tutti influenzati da De Benedetti. No, e quindi De Benedetti fa una campagna vuol contro dire che la proprietà incide. Beh, eccezionale, alla luce di quello che abbiamo visto oggi sul Corriere della Sera, quello che dice Santoro all'inizio, al servizio di Berlusconi no, però alcuni cambiamenti nel patto di sindacato, questo non l'ha detto, lo aggiungo io, potrebbero aver avvantaggiato Berlusconi. Infatti si è visto oggi sul Corriere della Sera quanto Berlusconi abbia influenza sulla linea editoriale del Corriere della Sera. Va bene, ma lasciamo Ghedini e Santoro. Riprenderemo dopo in realtà Ghedini, perché dice Ghedini, no, vi leggo dopo un'agenzia. Prima ascoltatori, Antonio da Firenze. Buonasera Cruciani e complimenti per la trasmissione. Prego. In maniera telegrafica, cioè quello che voglio dire io è che avvilente comunque sia sentire sempre questi attacchi nei confronti di Berlusconi per questi suoi atteggiamenti che ha privatamente. Con questo, cioè, io non è che sto giustificando. La cosa avvilente è questa, che veramente la sinistra o chiunque altro, cioè, dovrebbe trattare degli argomenti un po' più seri o comunque sia intavolare cose più serie, invece di dire vabbè tu privatamente insomma hai fatto questo o quest'altro. E quindi dico, da semplice cittadino è veramente avvilente, perché i temi dovrebbero essere ben altri. Antonio, io sono d'accordo con lei quando dice che su vicende di questo tipo, peraltro ancora tutte da provare, c'è un'inchiesta giudiziaria che non coinvolge, almeno da quello che si legge, il Presidente del Consiglio, ma comunque lo coinvolge dal punto di vista dell'opinione pubblica, dal punto di vista dell'immagine, forse dal punto di vista della ricattabilità o meno, questo ci diceva prima il direttore d'Europa Menichini, della prudenza che si dovrebbe utilizzare. Io non vorrei vedere nemmeno una frase su una vicenda del genere detta da un esponente dell'opposizione, nemmeno un giudizio, eppure abbiamo assistito anche oggi a diverse prese di posizione. Antonio? Cioè, comunque quello, perché la realtà alla fine della fiera è questo, cioè la realtà vera è che le banche comunque stanno chiedendo agli imprenditori di rientrare perché non hanno più liquidità. Allora, cioè, chiediamoci di questo. Probabilmente in un mondo quasi perfetto, in nazioni quasi strutturate, potremo anche andare a trovare il capello su atteggiamenti personali, però credo che in Italia le priorità siano altre. Poi dopo possiamo anche vedere se da un punto di vista morale il Presidente del Consiglio può essere in grado o no di poter stare in una certa posizione. Però il discorso delle priorità secondo me non tiene, Antonio. Questo cosa significa? Che il Corriere della Sera non doveva pubblicare una notizia? Non è che il Corriere della Sera ha solo questa notizia, il Corriere della Sera è pieno di altre notizie che riguardano l'Iran, che riguardano la situazione economica, eccetera eccetera. C'è anche questa vicenda che è una pagina del Corriere della Sera con la ricostruzione dell'inchiesta appena iniziata a Bari e poi l'intervista a questa Patrizia Daddario. Certo, no, ma assolutamente, cioè quello lo metto in maniera deprecabile, cioè come se verrà approvato. La cosa è che, ecco, cioè è la cosa, diciamo, più facile, tra virgolette, credo, ecco. Cioè lei vorrebbe che il dibattito politico non si attorcigliasse intorno a questi argomenti, la camera da letto, le persone che frequentano le residenze private o non, per adesso solamente private, cioè, del Presidente del Consiglio. La mia preoccupazione è probabilmente perché non ci sono idee. Beh sì, non c'è dubbio. Oggi c'è per esempio una notizia che è uscita fuori dopo un altro pronunciamento dell'Europa sul fatto che la settimana prossima dovrebbe essere in agenda la questione dell'età pensionabile delle donne. Vedremo cosa succederà, l'ho detto Brunetta, e questa sicuramente è una di quelle cose concrete da cui ci si aspetta una decisione. Sarà alzata o meno, non dico che bisogna farlo, anzi no, io lo dico per quello che mi riguarda, però il dibattito è aperto. L'età pensionabile delle donne, probabilmente una decisione in un modo o nell'altro verrà presa la settimana prossima. Ci sono grandi divisioni all'interno dell'esecutivo. Vede la differenza tra un tema di questo tipo e le frequentazioni di Palazzo Grazioli? Sono due temi, insomma, radicalmente diversi. La ringrazio, Augusto da Cuneo. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Volevo parlare sul tema del giorno. Io oggi ho letto il Corriere della Sera e l'intervista alla signora Daddario. Francamente, ai tratti della verosimiglianza, anche il furto subito in appartamento. Ai tratti della verosimiglianza. Beh, insomma, il furto nell'appartamento, abbia pazienza, forse è la parte meno credibile, cioè, no, mi scusi Augusto, l'ipotesi complottista secondo la quale lei, siccome a un certo punto poteva rivelare delle cose scomode, non so che cosa, subisce un furto chissà da chi, ma lei lascia intendere da parte di quelli con cui si è candidato in lista, insomma esponenti del PDL in Puglia, francamente mi sembra la parte forse meno credibile della vicenda. Sì, meno credibile, ma anche la più verificabile, per cui anche stupido se non è vero. Verificabile cosa? Che uno abbia subito un furto? Sì, ma bisogna vedere il furto da chi l'ha fatto, naturalmente. Quello che dico io, comunque, lasciando perdere, perché non entro nel merito tanto della situazione, quello che trovo sullo sfondo è l'incredibile leggerezza del nostro primo ministro nel trattare la... Cioè, non è più un facoltoso imprenditore ormai da molti anni, è qualcosa di più. Italia, in particolare in questo momento, che è di nuovo primo ministro, io lo trovo di una leggerezza al modo in cui tratta la... Quale sarebbe la leggerezza in questo caso? In cosa si manifesterebbe la leggerezza? Si manifesterebbe in questi comportamenti che, come stiamo vedendo, comunque... Cioè, però mi scusi, Augusto, emergono dei comportamenti, lei dice. Allora, lei dà per scontato. Forse lo diamo tutti per scontato, non solo lei, lei dà per scontato che il racconto di questa Patrizia Daddario, quando dice che c'è stata una festa in cui sono state invitate 20 ragazze e poi un'altra occasione in cui con pizzette e champagne alcune si sarebbero intrattenute anche la notte, poi lei quella notte no, ma una festa successiva sì, lei sta dando per scontato che queste cose siano tutte vere? No, assolutamente, però la cosa che comincia a darmi Io penso di essere assolutamente moderato e non essere un estremista in nessun senso. No, ma non ho detto questo, per carità. Però dico che cominciano a essere veramente troppe le situazioni. È possibile che siano veramente tutte inventate di sana pianta? È possibile che veramente... Cioè, io devo avere un certo atteggiamento perché mio, perché poi possa essere, diciamo, sì, costruito, sì, qualcosa sul mio modo di comportarmi e di essere. Non lo so, cioè... E un uomo in quella posizione, veramente io temo per la ricattabilità, ma non su cose grandiose, qui non stiamo immaginando scenari spionistici o quant'altro, ma che banalmente nella quotidiana vita politica Berlusconi debba magari pagare qualche prezzo per questa sua vita. Lei dice che da tutte le cose che abbiamo sentito in questi mesi emerge comunque che ci sono state sicuramente delle occasioni in cui numerose ragazze hanno frequentato delle feste, adesso non sappiamo cosa sia avvenuto, comunque si siano recate presso la residenza sia in Sardegna sia a Roma del Presidente del Consiglio. Questo a lei pare una leggerezza, qualsiasi cosa si sia verificata all'interno di queste abitazioni, e in qualche modo il pericolo secondo lei è per la ricattabilità, non su cose grandiose come dice, ma su cose piccole e comunque significative. E poi c'è l'aspetto di chi ha pagato queste ragazze, se è vero che sono state pagate per andare a Palazzo Grazioli, perché bisogna poi verificarlo. Certo, io fatico a immaginare che sia tutto costruito su nulla. Lo so che non, in un tribunale quello che dico non varrebbe nulla, me ne rendo perfettamente conto, però in quella posizione purtroppo e in generale non valgono soltanto le prove. Io ho quotidianamente contatti per la mia attività con colleghi esteri, è già una leggenda Berlusconi, a torto o a ragione è una leggenda. Sì, però Augusto, mi perdoni, non è una cosa che può, come dire, non è su quello che ci dobbiamo far guidare. No, non ci si può far guidare dal fatto che lei ha dei colloqui con i suoi colleghi esteri, perché poi le relazioni tra gli stati, come abbiamo visto anche nella recente visita di Berlusconi negli Stati Uniti, non è che passano attraverso queste cose qui. Non è che l'immagine all'estero di Berlusconi sia così compromessa come qualcuno lascia pensare, da impedire di avere un colloquio, però si può giudicare in tanti modi, tranquillo con il Presidente degli Stati Uniti. E poi sono quelle le cose importanti, non quello che possiamo. Assolutamente, difatti sono stato piacevolmente sorpreso da come è andato il colloquio con... Eppure qualcuno, Augusto, come Furio Colombo, ha tutta una sua interpretazione sul My Friend. Vi ricordate il My Friend dell'incontro? Lei se lo ricorda, no? Il My Friend di Obama. Sentite, forse potrebbe essere della serie Nunce Bonno Sta, quelli che pensano da grandi fan di Obama e sono rimasti molto colpiti dal modo in cui i due si sono incontrati. Sentiamo Furio Colombo. Una piccola svista di traduzione che si vede anche nei titoli dei giornali, e io chiedo ai colleghi di essere un po' più precisi quando traducono dall'inglese. Oh, come bello rivedere, che cosa bella vederti, caro amico. Ecco, no, la frase è di Obama. La frase di Obama, tradotto così nel titolo del giornale. Ora, la vera frase è nice to see you, my friend. My friend è un'espressione che si dice quando non si vuole usare il nome e cognome della persona, perché è più carino dire my friend che dire Mr. Berlusconi. È un atto di cordialità che però è assolutamente quotidiano. Nice to see you, my friend. Un traduttore in un romanzo avrebbe tradotto buongiorno. Beh, io non lo so. Secondo voi la traduzione è giusto quello che dice Furio Colombo? Abbiamo dato troppa importanza a quel my friend, perché la traduzione di quella frase, il modo in cui Obama ha accolto Berlusconi, è semplicemente buongiorno, o c'è qualcosa di più? Io adesso, senza essere un profondo conoscitore della lingua inglese, così nei dettagli, mi sembra che sia qualcosa di più di un buongiorno. Lei che dice, Augusto? Sì, sono abbastanza d'accordo. Io abbastanza spesso parlo con colleghi inglesi, sì, normalmente. Ma poi questo non vuol dire niente, non è che Obama... Non vuol dire niente, quel che conta sono piuttosto le due ore di colloquio. Sì, cosa, i contenuti, certo, ma nessuno vuole esaltare quel my friend, né però pensare che siccome... siccome a Furio Colombo un po' gli rode aver visto Berlusconi, no? Essere così, insomma, quelle risate, quell'atmosfera normale, diplomatica, da due capi di Stato, gli rode, chissà cosa pensava, no? Magari pensava che Obama dicesse qualcosa sulla cafonaggine di Berlusconi, o pensava che ci sarebbe stata qualche gaffe. Ma le regole diplomatiche non... Ma no, ma infatti, insomma, mi sembrano le cose assolutamente normali, ecco, però banalizzarle come fa Colombo mi sembra per partito preso, ecco. La ringrazio, Augusto, la ringrazio. Grazie, arrivederci, buonasera. Martino da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Mi chiedo a chi giovi tutto ciò, perché... Cosa, l'inchiesta di Bari, da Dario, sì, eccetera? Esatto, non, questo così come... quello che è successo prima delle elezioni, cioè non capisco veramente chi giova, non giova noi italiani, perché questo ovviamente va a gettare ombre o presunte tali che poi alla fine a livello di, anche dal punto di vista giuridico, vediamo il discorso dei voli di Stato non hanno nessuna sostanza. Getta ombre sul nostro premier, che ci piaccia o no, è comunque il nostro premier. Non giova la sinistra, e questo evidentemente i numeri, quindi mi riferisco alle elezioni, sono abbastanza evidenti. Non, io mi aspetterei dalla sinistra sfide un po' più concrete su temi veri, su temi importanti, cosa che oggi non sento da nessuna parte, non sento Similia. L'unico politico della sinistra che mi sembra abbia un po' di sostanza, che però francamente mi ha un po' deluso ultimamente, è D'Alema. Ma anche lui con questo sistema di buttare l'amo, dire, non dire, non lo trovo concreto. E gli americani da questo punto di vista ci insegnano molto. Il presidente degli Stati Uniti è il presidente anche di chi ha perso le elezioni, viene sostenuto sempre. Da noi non è così, da noi non è così. E non giova nessuno, anzi. Cioè, non che la lotta politica negli Stati Uniti qualche volta non sia molto serrata, molto, molto forte, molto... anche molto accesa la sfida politica negli Stati Uniti, certo che però a meno che non ci siano cose molto gravi, procedimenti di impeachment come è successo nel caso Clinton, che però si incanalano attraverso un percorso istituzionale, il presidente o comunque chi comanda in quel momento, chi tiene le redini della baracca in quel momento, è il presidente di tutti. Da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione, l'Italia è un paese così sfibrato da questo punto di vista. La ringrazio, Martino. Dove andiamo? A Bergamo, mi sembra, un ascoltatore da Bergamo. Roberto. Sono in linea. Eccoci. Sono Roberto. Allora, volevo fare qualche domanda a proposito della dichiarazione che ha fatto sentire prima del Presidente del Consiglio di Berlusconi. E volevo chiederle se anche lei condivide il fatto che, a quanto pare, il Corriere della Sera è un quotidiano di sinistra. Primo. La seconda domanda è... Ma chi l'ha detto questo? Chi l'ha sostenuto? Mi scusi. Mi pare Silvio Berlusconi. Ma no, di che stiamo parlando? Di quale frase di Berlusconi sul Corriere della Sera? Mi scusi. Lei l'ha fatta ascoltare prima. Faccia risentire la frase. La seconda cosa che ha detto è che gli uomini di sinistra sono antropologicamente diversi dagli altri, cioè quelli di destra. Lei ci crede? Ma no, assolutamente no. Terza cosa, gli uomini di destra sono quelli che fanno, e a sinistra non c'è nessuno che fa niente. Non so, volevo sentire lei cosa ne pensa. Ma no, mi sembrano stupidaggini. Stupidaggini dette dal Presidente del Consiglio. Stupidaggini dette dal Presidente del Consiglio. Allora, abbiamo un Presidente del Consiglio che dice... Che dice ogni tanto delle stupidaggini. Sì, va bene, allora... Forse che secondo lei sono delle stupidaggini. No, diciamo che ogni tanto al Presidente del Consiglio scappano delle stupidaggini, sì, in bocca, ecco. Beh, insomma, non è la prima volta che succede un Presidente del Consiglio in Italia, in generale, ma no, in generale è un nuovo politico nel mondo, ogni tanto secondo alcune persone dicono delle stupidaggini. Non è universalmente poi riconosciuto che queste siano delle stupidaggini, magari qualcuno ci crede. Secondo lei sono delle stupidaggini. Vogliamo risentire la frase, però, mi scusi, resti con me, risentiamo. Io credo che i cittadini abbiano avuto modo di dare il loro giudizio sulla diversa natura di noi e di loro. Io sono arrivato a credere che ci sia veramente una differenza antropologica tra noi e loro. Noi siamo quelli che guardano alle cose concrete, siamo gli uomini di buona volontà e di buon senso, non siamo malati di invidia personale mai, e non siamo malati di odio politico. Dall'altra parte ci sono invece tutti coloro che hanno questa malattia e che si riconoscono in questa sinistra che è quella sinistra con cui purtroppo noi ci troviamo a dover operare. Ciascuno dovrebbe fare un esame di coscienza e dire io da che parte sto. Se sto di là, va bene, guardati nello specchio e giudicati. Allora, io il Corriere della Sera non l'ho sentito però, mi scusi. No, ma neanche io parlavo di dichiarazioni di Silvio Berlusconi, mica del Corriere della Sera. Quando all'inizio della sua prima passata della dichiarazione ha detto dichiarazioni che lo attaccavano, non ha citato in realtà, ha ragione, il Corriere della Sera. Ah, ecco. Era una chiara allusione. Ma comunque. No, ma parlava di Repubblica, guardi. Cioè... Vabbè, ritiro. Comunque, vabbè. Comunque i buoni stanno di qua, i belli stanno di là, insomma si divide in due l'Italia, ma non è così, io non credo che lei ci creda, Cruciani. Ma no, perché dovrei crederci, scusi? C'è qualcuno che lavora anche a sinistra, così come c'è qualche anche... Ma certo, ma poi scusi, no, l'odio politico effettivamente, sì. Effettivamente nei confronti di Berlusconi si è coagulato nel corso di questi anni un qualcosa che si avvicina molto all'odio politico, però... Insomma, ma diciamo che l'imbecillità è democraticamente distribuita tra la destra e la sinistra. No, sì, diciamo che l'odio per Berlusconi è diventato anche un filone, è diventato un filone speciale, non è qualcosa, è qualcosa di un po' diverso da questo punto. Non voglio giustificare le frasi di Berlusconi che sono diverse da quelle che sto dicendo io, sto dicendo che per l'odio per Berlusconi non ne faccio una questione antropologica, non mi interessa. Sì, ma le faccio un'altra domanda, sì. Un magistrato che o un sì. Inquirente che per farsi pubblicità decide di inventare una storia assurda, io non credo tanto a queste storielle sì. Che saltano fuori sistematicamente e si inventa una bella storiella su Silvio Berlusconi o su qualche altro personaggio noto per diventare magistrato anche lui famoso, essere intervistato dai giornali eccetera eccetera, sì. non dimostra per forza che questo sia di sinistra. Ci saranno anche degli imbecilli magistrati di destra che per farsi pubblicità si inventano delle storie su Silvio Berlusconi. O è obbligatorio che siano di sinistra? No, ma se sono scemi sono per forza di sinistra. No, vabbè, ma queste sono guardi le semplificazioni con le etichette, io l'ho sempre odiato. Figuriamoci se non le odio anche in questa occasione. Non... Appunto, siamo d'accordo. Vabbè, perfetto. Grazie, buonasera. Buonasera. Leonardo da Torino. Buonasera dottore. Dica. Volevo porle una domanda su un tema che in pratica oggi è diventato un sottotema. Allora, premetto che io non ho mai votato per la compagine di centrodestra. Allora? Però mi piace vedere le cose comunque con un certo distacco che non sia di divisione. Non le sembra, e questa è la domanda, che in una cultura diversa dalla nostra, né italiana, la frase di D'Alema di qualche giorno fa sulla scossa, in un'altra cultura sarebbe considerata con molta... diciamo semplicità come una frase tipicamente mafiosa. Ma cioè, non le sembra che la mafia, al di là del diciamo delle perversioni, omicidi e quant'altro, di cose bruttissime, la mafia sia anche e soprattutto un modo di essere, per cui dico, non dico, ti faccio capire che so, però sì. Io non so che cosa sappia. No, ho capito, Leonardo. Il modo di porsi, qualche duro mi chiedesse, per me è mafioso. Io non confonderei un uomo politico e non lo accosterei mai, quando naturalmente non ci sono delle cose evidenti, alla parola mafia o a associazioni mafiose o cose di questo tipo. È un'operazione sbagliata, secondo me. Poi ne discutiamo su quella ancora, se volete, sulla scossa evocata di D'Alema. TG5. Berlusconi incontra all'Aquila gli imprenditori responsabili della ricostruzione e conferma lo stato di avanzamento dei lavori. A settembre 3.600 persone nelle nuove case, entro novembre saranno 15.000. Inchiesta a Bari sulla sanità, spuntano intercettazioni sulle feste del Premier. Berlusconi, falsità, non mi farò condizionare. PDL contro D'Alema, perché ha pronunciato scosse? E lui replica, il Premier dia risposte. Iran, terzo giorno di manifestazioni contro il regime. In piazza decine di migliaia di sostenitori di Mousavi. I Pasdaran minacciano la pena di morte per chi crea disordini. Sconcerto dopo le immagini shock del romeno ucciso per errore dalla camorra. I napoletani reagiscono. Non siamo indifferenti, abbiamo tanta paura. mai più saluti romani allo stadio per la Cassazione e istigazione alla violenza. Polemiche per la foto del ministro Brambilla col braccio teso. L'opposizione si dimetta, la replica mai stata fascista era un saluto alla folla. Per l'OCSE, scuola italiana fanalino di coda tra i paesi europei. Gelmini, serve più qualità, avanti con le riforme. Università, ecco le facoltà che garantiscono un lavoro sicuro. Ondata di calore in tutta Italia e per venerdì sono previste temperature intorno ai 35 gradi. A rischio bambini e anziani. Eccoci. Beh, insomma, le polemiche sul braccio teso della Brambilla a Lecco mi sembrano un po' assurde, francamente. È vero che nella storia della famiglia Brambilla pare che ci sia un padre un po' militante di estrema destra, o comunque militante di estrema destra non si può dire, ma insomma fascista, o quando c'era il fascismo, ecco, che non era una cosa così inusuale, ma a parte questo, non so se avete visto le immagini, adesso speculare su un braccio alzato, sulla distanza del gomito teso, la posizione del braccio, mi sembra una cosa ridicola. Tra l'altro non era nemmeno una manifestazione, diciamo, di militanti, ma era addirittura un raduno dei carabinieri, insomma. Mi sembra una cosa assurda, eppure ci sono manifestazioni a Lecco di comitati antifascisti, richieste di dimissioni ci dovrebbero essere per cose un po' più concrete, secondo me. TG1. Obama presenta la riforma della finanza, maxi poteri alla Federal Reserve che vigilerà sui mercati e tutelerà il risparmio. L'opposizione ancora in piazza in Iran, arresti tre riformisti, il Nobel Abadi al TG1 al voto con osservatori internazionali. Inchiesta su appalti sanità a Bari, Berlusconi, spazzatura, non mi farò condizionare. D'Alema, denuncio chi dice che manovro procure. Aveva la fisarmonica, gli hanno sparato, parla la moglie del rom ucciso nella metro a Napoli, non tornerò in Italia. Il cellulare era il sogno di Guglielmo Marconi, il telefonino del futuro si accenderà con il pensiero. Quali sono le strade più spettacolari del mondo? Risponde una classifica americana ignorando le bellezze dell'Italia. Beh, un ascoltatore scrive: il mio presidente, quello che in teoria dovrebbe essere il mio presidente, non dice che io sono antropologicamente diverso perché non lo voto e quindi non lo credo né lo sento il mio presidente. È un circolo vizioso, perché sono di sinistra e faccio lavoro e non sono d'accordo con molto delle politiche di questo governo, ma non dico che fanno schifo. Guido da Varese. Il succo di questo messaggio è che Berlusconi, con quella frase sulle persone antropologicamente diverse perché votano a sinistra, ha detto una baggianata. Dove andiamo? Francesco da Milano, credo. Francesco da Milano, Modena anzi, Francesco da Modena. Pronto? Dica. Buonasera, sono di Modena, non sono di Milano. Di Modena, sì. Allora, intanto una premessa per quanto riguarda il Corriere della Sera. Sicuramente non è di sinistra, ma sicuramente non è di destra. Ricordo che nella passata legislatura Prodi, il direttore di allora, Mieli, si schierò apertamente con il centro-sinistra. Sì, si schierò per Prodi senza lesinare successivamente, durante l'anno e mezzo di legislatura o poco più, i due anni di legislatura prodiana, molte critiche allo stesso Prodi. Sì, ma resta il fatto che si schierò, ma comunque voglio dire... Vabbè, cosa vuole dire? A parte che per me le etichette destra-sinistra non significano niente. Comunque. No, io sposo... Sono stato preceduto dall'intervento di Antonio di Firenze, che ha praticamente mi ha anticipato come cittadino, lasciando stare che sono un elettore di centrodestra, perché ne avrei anche per quanto riguarda Berlusconi e centrodestra, ma come cittadino sono veramente disgustato da questa campagna, da queste azioni, sia da una parte che dall'altra. Allora avrei due proposte da fare a lei. La prima è: perché non provate a fare tipo cartello di Medellin e per 20 giorni, una settimana, rifiutare discussioni su Berlusconi, sinistra, destra, D'Alema, eccetera? Perché non fate questo? perché non se ne può più veramente, non se ne può più. Io ascolto la sua trasmissione volentieri perché per lavoro sono sempre in macchina, però basta. Cioè, cosa dovremmo fare, mi scusi, ma Francesco? Parlate di qualcos'altro, non lo so, ma fate una prova. Perché credo che una cosa che succede in Italia non succede in nessun altro paese. L'altro ascoltatore diceva che negli Stati Uniti, quando c'è una campagna elettorale, se ne danno di santa ragione. Poi dopo il presidente è il presidente di uno schieramento e dell'altro. Perché in Italia non dovrebbe essere la stessa cosa? Guardi, però questa qua è più una... Francesco, questo qua è più una... una questione di atteggiamento poi dell'opinione pubblica, di divisioni così profonde, spesso suscitate dalla presenza di Berlusconi, che sicuramente ha spaccato e continua a spaccare e a suscitare odi e quant'altro. Però anche in altri paesi la lotta politica è quotidiana. Bisogna vedere su che cosa è la lotta politica. Ecco, in Italia spesso si parla assolutamente del nulla. Francesco, la ringrazio. Ci sono ancora i titoli della 7. Prima al Quirinale, poi all'Aquila per la verifica del dopo terremoto, la giornata del Presidente del Consiglio scandita dagli impegni istituzionali e dalle polemiche per la notizia pubblicata dal Corriere della Sera di un nuovo filone giudiziario pugliese su un presunto giro di tangenti connesso a feste in case del Premier, che replica spazzatura e falsità. Terzo giorno di rivolta e arresti nelle piazze di Teheran, anche alcuni calciatori della nazionale iraniana sfoggiano braccialetti verdi. La protesta si diffonde su internet, il regime attacca i media e la procura annuncia i dimostranti rischiano la condanna a morte. Dopo Palermo l'emergenza rifiuti sommerge la provincia del capoluogo siciliano, a Bagheria la raccolta è ferma da 10 giorni, cumuli di immondizia sui marciapiedi e lungo le strade del centro, il comune chiude scuole e uffici pubblici. Nuovi colpi annunciati sul mercato del calcio. Appena sbarcato al Chelsea, Carlo Ancelotti va a caccia di Ibrahimovic e sogna anche Ringhio Gattuso. L'esodo dall'Italia potrebbe riguardare anche altri giocatori azzurri. Il Real, sulle tracce di De Rossi? Va bene, allora Ghedini, l'avvocato del Presidente del Consiglio, dice: qualsiasi ricostruzione si possa ipotizzare, ancorché fossero vere le indicazioni di questa ragazza, si sta parlando di Patrizia Daddario, e vere non sono, dice Ghedini, il Premier sarebbe, secondo la ricostruzione, l'utilizzatore finale. Dunque l'utilizzatore finale di queste parole, di queste ragazze, quindi mai penalmente punibile. Si ipotizza dunque, mettiamo che siano vere le parole di questa Patrizia Daddario, delle ragazze siano state pagate per andare a delle feste a Palazzo Grazioli, il Premier sarebbe l'utilizzatore finale, sempre nell'ipotesi negata da Ghedini che le parole della Daddario siano vere, quindi mai penalmente punibile. Ma non è questo il punto, evidentemente. Dove andiamo? Andiamo a Novara da Roberto. Buonasera. Buonasera. Dica. L'ultima di Ghedini secondo me è terribile, perché insomma, alcune donne si sono arrabbiate, però insomma. Io non sono una donna, ma dalle nostre parti faceva un discorso tecnico Ghedini, eh? Sì, però dalle nostre parti i sindaci leghisti li fotografano gli utilizzatori finali, quindi insomma, vabbè. Questo è vero, insomma. Quindi, non solo sindaci leghisti. Sì, no, in tutto, adesso dico leghisti perché sono dall'altra parte, ecco, però ecco, è così. Ecco, poi sono d'accordo con quel ascoltatore che voleva dire che sarebbe meglio parlare di altro, tipo di importanti opere pubbliche sospese perché mancano i soldi, già iniziate sospese. Ne parla il Corriere della Sera, sì. Io ne sì, però, però non volevo parlare di questo. No, ma ci può anche parlare di questo. Il Corriere della Sera pubblicherà domani, credo, un'inchiesta sul magazine anticipata sul sito delle tante opere pubbliche. In realtà non c'è niente di nuovo, non tanto mai concluse, in realtà proprio abbandonate. No, ma nemmeno abbandonate. Guardi, una sospesa, lasciate a metà. Un mese fa a Firenze, importantissima, insomma, è lì. Chissà quando si riprende e quando. Magari domani ne parliamo, vediamo. Va bene. Però volevo dire una cosa, io non volevo giudicare i comportamenti di Berlusconi in quanto Berlusconi persona, perché sono anche solo le mie idee, sono fatti suoi, quelli di Berlusconi, però mi è venuta questa idea, cioè come Premier lui ha conoscenza di segreti di Stato, militari, economici, li gestisce, cioè, con queste sue frequentazioni, perché fino a che punto non si sa, però un po' di frequentazioni diciamo ce le ha, insomma, io non sarei tanto tranquillo come cittadino, insomma, Matari è esistita e altre persone femminili che hanno, insomma, che sono state delle spie, ce ne sono state. Poi tutte quelle di cui si circonda hanno due lauree intelligentissime, ecco, un po' di preoccupazione ce l'avrei io. Lei dice è la sicurezza, cioè la presenza di diverse donne, di tante donne accanto in diverse situazioni potrebbe mettere a repentaglio qualche segreto di Stato, comunque è un'ipotesi, cioè non sarebbe la prima carità. Volta che succede, ecco, non ho capito, la ringrazio. L'inchiesta di Bari, secondo me l'ipotesi di induzione alla prostituzione, non so, ci dovrebbe essere una denuncia per far scattare un'ipotesi di questo tipo. L'inchiesta invece per induzione alla prostituzione parte da un'altra inchiesta, una inchiesta su per corruzione che riguarda un'azienda farmaceutica, credo, o comunque il campo della sanità. Leggo dall'ANSA che riassume: un indagato, diverse ragazze ascoltate come testimoni, un'ipotesi di reato per induzione alla prostituzione. Sono questi gli elementi sostenuti da intercettazioni telefoniche, come al solito da alcune testimonianze, sui quali poggerebbe l'indagine della procura di Bari su un presunto giro di donne che probabilmente in cambio di denaro avrebbero preso parte alle feste organizzate a Palazzo Grazioli e Villa Certosa, due delle residenze di Berlusconi. Il premier non è indagato. L'indagine ruota attorno alla figura del giovane imprenditore barese Giampaolo Tarantini, titolare fino a novembre del 2008 assieme al fratello Claudio della Tecnospital, società che fornisce protesi e tecnologie ospedaliere. Il nome di Giampaolo Tarantini sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, eccetera, eccetera. E alcune delle ragazze sarebbero state già ascoltate. Ora, io non so se effettivamente esista un reato di questo tipo, siamo in presenza di un reato di questo tipo, ma se delle persone vengono reclutate e pagate per partecipare a delle feste, si tratta di induzione alla prostituzione? Non lo so, è una domanda, eh. Un gentile amico ci scrive un messaggio: come mai lei non ha ancora citato il vecchio patetico sporcaccione di Gad Lerner sul suo blog rivolto a Silvio Berlusconi? Le do l'assist e l'assist io. Caro amico, lo raccolgo volentieri andando direttamente sul blog di Lerner, che dà per scontato naturalmente, ma questo è normale, va benissimo, che la signora Patrizia Daddario racconti tutta la verità, nient'altro che la verità. E allora scrive nel suo blog il bastardo: dopo quell'ultima domenica di maggio in cui l'ex fidanzato di Noemi Letizia rivelò che dei 10 giorni trascorsi da quest'ultima Villa Certosa, senza che nessuno lo potesse smentire, la valanga si è messa in movimento e con l'intervista rilasciata al Corriere della Sera da Patrizia Daddario, una delle decine, forse centinaia, di giovani donne reclutate per compiacere Berlusconi nelle sue residenze private, pagate con denaro o solo con la speranza di trarne benefici, è evidente che la situazione per lui diventerà presto insopportabile, scrive Lerner. Non è più solo il marito ridicolizzato dall'eccessivo numero di bugie con cui invano ha tentato di coprirsi. Non è più solo il vecchio patetico sporcaccione che fino a ieri si vantava di realizzare il sogno di un harem italiota. Con tutta evidenza è un esponente politico che riveste le massime responsabilità istituzionali di governo, trovandosi esposto a ricatti che non ha più la forza di dominare né di pagare in silenzio. Chissà quante altre promesse non mantenute, come quella della Daddario, che andava in cerca, se ho capito bene, di una licenza edilizia, verranno reclamizzate man mano che la difficoltà dell'uomo diviene plateale. Questa circostanza disonorevole e imbarazzante è anche un riflesso di pericolosità per il paese. Immagino che Berlusconi tenterà inutili reazioni di pura forza per smentire una realtà, lo ripeto, di cui fino a ieri si vantava da impunito. Si apre così una partita tutta interna al centrodestra. Temo che l'oltranzismo berlusconiano, prima di gettare la spugna, cederà nuovo spazio alle componenti populiste. E qui, nell'interpretazione di Lerner, c'è quella stessa interpretazione di alcuni esponenti, forse anche dello stesso D'Alema, seppur molto distante da Lerner, nei giorni scorsi, quando diceva che il crepuscolo berlusconiano si accompagnerà necessariamente anche a degli scossoni per il nostro paese. 800 24 00 24. Poi vi racconto cosa è l'induzione alla prostituzione. Intanto l'assessore al territorio e l'urbanistica della regione Lombardia della Lega, Davide Boni, buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Senta, lei che ne pensa? Poi le domando di un'altra cosa, di tutta questa vicenda nuova che coinvolge il Presidente del Consiglio. Ma guardi, sia sanguigno come al solito, Boni. Mi dica la verità, tutta la verità, no scherzo. Io non so cosa pensare, conosco Lerner, ma sono tutte cose da provare, bisogna vedere se è vero. Poi se è vero è naturale che un Presidente del Consiglio queste cose non deve farle, punto a capo, questo è. Però capisco anche che essendo Presidente del Consiglio non è una questione solo di coscienza, ma deve rispondere di fronte ai cittadini italiani. Va bene, andiamo oltre, va. Lei si occupa di altre cose poi in realtà. Appunto, no, anche perché ho sentito che per le licenze edilizie la immagini, io sono assessore al territorio e all'urbanistica. Questa è una brutta battuta cattiva, la prenderà Lerner. Beh, sì, sai, se per una licenza edilizia uno si deve prostituire alla fine, insomma. È incredibile. Stiamo sempre per scontato che queste cose siano vere, ma in realtà è ancora tutto da provare, naturalmente. Senta Boni, perché lei l'altro giorno, per questo l'ho chiamata, mi sono incuriosito, perché l'altro giorno lei ha detto che nei giardinetti non ci devono essere più assembramenti di extracomunitari, nei giardinetti pubblici milanesi, insomma in generale, lei assessore alla Regione Lombardia, si riferiva a Milano e in particolare a Piazza Oberdan a Milano. Sì, in Piazza Oberdan siamo di fronte a una situazione paradossale. Sono una quarantina di questi asilanti, per cui sono stati chiamati, hanno il diritto d'asilo qui a Milano in Italia, e non hanno accettato le richieste che gli faceva il comune di sistemazione provvisoria, tutte queste cose, hanno deciso di occupare questo parco, questo giardino. Ma il problema è che poi io sono stato chiamato dai cittadini, sono stato poi chiamato da altri cittadini, perché giro spesso sul territorio. Quello che si nota è che spesso e volentieri i parchi e i giardini sono occupati da persone che stanno lì un sacco di ore, bivaccano. E il punto è capire se questi stanno lì a fare che cosa, perché sono lì, perché io credo che il verde pubblico sia disponibile per tutti, dagli anziani ai giovani, dagli immigrati, piuttosto che tutti i cittadini italiani che decidono di andare a prendere il fresco o portare i bambini. Però Boni, posto che sia un problema l'assembramento, e probabilmente in alcuni punti delle varie città, diciamo del nord della Lombardia per quello che la riguarda, posto che sia un problema, e effettivamente in alcuni casi lo potrebbe essere, io dico sempre una cosa: la maggior parte di queste città sono amministrate dal centrodestra. In tutte queste città la Lega ha assessorati, eccetera, potere reale di intervenire nell'amministrazione. È vero che in alcuni casi i problemi non sono delle amministrazioni locali, ma sono invece del ministro degli interni e dunque del governo centrale. Però, come nel caso degli autobus, della famosa polemica di Salvini, se ci sono cose che non devono succedere, violenze eccetera all'interno degli autobus, sono le amministrazioni comunali che devono porre rimedio. Se in un parco ci sono cose che non vanno perché la gente non può passeggiare tranquillamente, si chiuda quel parco, si prendono provvedimenti, ma siete voi a guidare quelle città. No, ma io su questa cosa sono d'accordo con lei, Infatti io non è che mi sia scatenato contro l'opposizione. No, ma... Tant'è che ha avuto la reazione del vice sindaco. Sì. Io credo che una maggiore attenzione rispetto a queste cose, visto che Maroni ha fatto tutta una serie di ordinanze da parte dell'amministrazione comunale di Milano, debba essere fatta. Io penso che il decoro e il degrado delle città sia la prima cosa di cui un amministratore si dovrebbe occupare. Dunque, da questo punto di vista, Milano è largamente deficitaria. Io ci abito da diversi anni, penso che una maggiore presenza del sindaco in questa città ci debba essere per quello che riguarda proprio l'estetica, il decoro, in alcuni casi la vivibilità di alcune piazze, di alcune situazioni. Però insomma sono giunti in cui anche voi avete un peso, insomma fatevi sentire. No, in comune a Milano purtroppo non abbiamo tutto, ho un collega che fa l'assessore al marketing territoriale, abbiamo dei numeri un po' bassi, sono due i nostri rappresentanti. Capisce bene che dalla Regione Lombardia noi come Lega abbiamo la possibilità di interventi maggiori, tant'è che io ho fatto tutta una serie di norme, inquadramenti urbanistici e tutto quanto, grazie al fatto che siamo in 14 su 41 di maggioranza. Questo è forse un po' il senso. Certo che non mi nascondo, l'amministratore, al di là che l'amministrazione comunale di Milano sia amica, sì, mi sembrava... Non solo amica. No, ma perché non è che noi siamo esenti da errori. No, per carità, ma infatti... Mi è parso sbagliata la risposta del mio collega vice sindaco di Milano, che dice il problema è di Maroni. Ma che c'è? Ecco, io avrei preferito, vabbè, vediamo un attimo, mettiamoci tutti insieme e vediamo che cosa può, come ci si può andare fuori. Questo è il punto. Non è un problema. Quello che mi importava soprattutto era segnalare questo tipo di... Gli assembramenti di clandestini, però lei ha detto non solo gli assembramenti di clandestini, in generale gli assembramenti di extracomunitari, o solo di clandestini, lei ha detto? No, io guardi, ho detto anche di immigrati, perché qui c'è un problema. Vabbè, gli assembramenti di immigrati in generale, così sembra una cosa un po'... hanno tutto il diritto di riunirsi nei parchi o dove vogliono. Io le faccio un esempio stupido: qui ci sono alcuni parchi milanesi, ma come penso succede in tante altre città del nord, che sabato e domenica vengono invasi da cittadini anche sudamericani che hanno una cultura totalmente diversa rispetto alla nostra sul verde, per cui sono grigliate, balli, bevono, si ubriacano e tutto il resto. Il punto qual è? Che loro lo fanno normale perché la loro cultura è questo. Sì. Se nessuno gli insegna o gli fa capire che quello è patrimonio di tutti, è innegabile che il cittadino, magari che non è sudamericano ma è della Finlandia, che abita nei palazzi di fronte prospicienti a questi parchi, il sabato e la domenica la prima cosa che fa è chiamare i vigili urbani. Cosa dobbiamo andare con gli sfollagente tutti i sabati e le domeniche a spiegare alla gente che non si spacca le bottiglie o non si fanno queste cose qui? Beh, adesso Boni, lei sa benissimo che come dire, la sporcizia in generale o comunque la maleducazione che ci può essere in giro non è che sia prerogativa dei gruppi di sudamericani che si riuniscono per fare le grigliate la domenica. No, però questo porta a un esempio, perché io sono di questa idea: uomo avvisato mezzo rovinato, da un italiano non posso tollerarlo, perché penso che abbia studiato l'educazione civica come ha fatto io a scuola. Da uno magari che viene da un altro paese non lo sa. Magari ha studiato pure lui l'educazione civica, mica ha detto che necessariamente sia uno ineducato. Allora, nell'errore prendiamoci tutte le nostre responsabilità, questo è il senso. Sì. Perché se no ne basta uno, basta un esempio, perché come diceva Leonardo da Vinci, è da piccola cosa che nasce grande. No, ma io sono d'accordo con lei, le piccole cose sono fondamentali, però i primi a dover far osservare le regole, e bastano piccole regole però fatte osservare, sono proprio gli amministratori che devono imporle. Siccome nelle amministrazioni ci siete anche voi, insomma, fatevi sentire se volete davvero risolvere la questione del decoro nelle città, che per me è fondamentale. Non è che sia una cosa leghista il decoro nelle città, è una cosa che oggi si è fatto 35 testate giornalistiche, e l'unico che ha alzato la testa è stato il vice sindaco di Milano, che è del PDL. Evidentemente qualcosa è servito. Senta una cosa, che significa quella scritta che ho visto in una maglietta oggi sulla foto del Corriere: le donne leghiste sono le migliori? Che significa? No, siccome si parla di donne in questo periodo molto. È un gruppo femminile, ha preparato questa maglietta, è un po' uno slogan, un motto. Meglio questo che la Padania is not Italy di Salvini, che ieri abbiamo criticato molto. Guarda, io politicamente... Padani is not Italy non è bellissima come scritta. Secondo me uno ci sta, però Salvini ormai non è più nemmeno una persona che ha un minimo di ruolo anche pubblico, no? Sì. Vabbè, le piace a lei quella scritta, non la disturba più di tanto. No, guardi, io nel 96 ero sul Po, per cui questo non serve. Però io voglio fare un'altra maglietta: Padania is Italy, grosso come una casa. Ma maglietta di Padania is Italy, perché anche lei ammetterà che Padania is Italy, è all'interno. No, Padania is Italy, me lo dica, Boni, me lo dica. Padania è l'Italia, è in Italia. Geograficamente sì. No, se vuole, io col cuore mi sento molto padano. Vabbè, sì, questo però. È il senso. Ma lei fa il tifo per l'Italia o no? Quando gioca a calcio è naturale. Ah, ecco, meno male. Non è uno di quelli che fa il gufo come ha fatto Salvini in alcuni casi, no? No, faccio meno male. Un po' fatica. Poi essendo milanista, giocando alcuni milanisti, nonostante Gattuso sia calabrese, vabbè, che c'entra? Così gliela gioco tutta. Allora riapre un altro fronte qua, quello dei calabresi. Mi piace tantissimo il calcio. Va bene. Quando gioca la nazionale italiana la guardo sempre. Meno male, la ringrazio. E sui calabresi riprenderemo, perché non va bene. Grazie. Grazie. Roberto, provincia di Rovigo, buonasera. Buonasera. Dica. Mi sente bene? La sento molto bene. La ringrazio, grazie dell'opportunità di fare un intervento. Intervenivo in merito a quello scambio di battute che avete fatto prima su quelle brutte frasi del Presidente del Consiglio sulla differenza antropologica degli altri, che avete definito come stupide, se mi ricordo bene, come sciocchezze. Non so a cosa si riferisce lei. Avete circa 20 minuti fa parlavate, c'era quell'intervento del Presidente del Consiglio che diceva che noi siamo quelli che lavoriamo, loro sono quelli la sinistra antropologicamente diversa rispetto la sinistra antropologicamente diversa. E avete, cioè gli elettori di sinistra antropologicamente diversi o i militanti, non so chi si riferisse. Sì, in realtà su questo intervenivo, perché più che definirle sciocchezze, anche se trovo estremamente irritante questo modo di comunicare al nostro Presidente, bisogna ammettere che è estremamente efficace dal punto di vista della comunicazione, perché questa logica di utilizzare sempre il noi siamo quelli che lavoriamo, loro sono quelli che remano contro, noi siamo quelli belli, loro sono quelli brutti. Ma secondo me, poi mi scusi, un Presidente del Consiglio non dovrebbe utilizzare il noi e il loro. Assolutamente no, però in effetti funziona, nel senso anche la logica... No, ma è fastidioso, cioè Berlusconi che si vuole giustamente considerare il premier di tutti gli italiani, che poi dice noi e loro, sono cose un po'... D'accordissimo. D'accordissimo, però se nota anche quando identifica i suoi oppositori parla sempre in termini vaghi, è la sinistra, non è il PD, non è Franceschini, non è un qualcosa di oggettivamente riconducibile a qualcosa di oggettivo e contestabile, è sempre qualcosa di espresso in termini vaghi ed emozionali. Cioè, riceve un avviso di garanzia, è la sinistra, sono le toghe di sinistra o le toghe rosse, e il New York Times scrive qualcosa che obietta le politiche italiane, è la stampa di sinistra che influenza quella internazionale. È un sistema di comunicazione che trovo estremamente irritante, ma che crea questo dualismo che negli ultimi anni evidentemente gli ha dato ragione in termini di consenso. Ho capito. Una forma di comunicazione che crea consenso. Anche può darsi, ma a me non pare una uscita felicissima questa qua, ripeto, ad una televisione privata di Frosinone. Andrea da Pistoia, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Buonasera, intanto grazie per l'opportunità. Prego, io dica pure. Semplicemente volevo dire una piccolissima cosa, un piccolissimo appunto in premessa riguardo a quello che Furio Colombo, spezza una lancia al suo favore, diceva riguardo a quel nice to see you my friend. In effetti, conoscendo un minimo i paesi anglosassoni, quando si saluta in effetti si usano queste iperbole gigantesche per poi non voler dire niente. Quando lei va a firmare un foglietto di carta che è la ricevuta della sua carta di credito, le dico it would be so lovely to sign here, cioè sarebbe così amorevole se lei facesse una firma qua, che non vuol dire niente, infatti lo guardi e dici ma che stai dicendo? Quindi io riconduco a questo l'espressione di Obama. Cioè mi scusi, però che... siccome tutti quanti hanno sottolineato quel my friend nei giorni scorsi, tutti, anche... I giornali più lontani da Berlusconi hanno preso tutti un abbaglio? Ma secondo me, ecco, la polarizzazione che c'è a livello della stampa, e questo secondo me, ecco, voglio la sentire la sua opinione, riguardo a posizioni ideologiche di destra e di sinistra, Repubblica polarizzata in un modo, il giornale polarizzato in un altro, fa sì che si perda da vicino veramente quello che è la realtà dei fatti. Cioè sì, però mi scusi, io non credo molto che ci sia questa polarizzazione di cui lei parla. Ci sono alcuni organi di stampa che vabbè, hanno delle posizioni molto precise, eccetera, che sicuramente hanno delle particolari simpatie o antipatie per l'attuale Presidente del Consiglio, però il resto della stampa è fatta di osservatori che cercano, anche di guardare semplicemente i fatti senza posizioni pregiudiziali, insomma. Io mi metto tra questi, ma insomma così indegnamente mi metto. Ma... No, ma sono d'accordo con lei, cioè fare di tutto un erbo un fascio è sempre difficile, però il messaggio che poi viene passato è sempre un messaggio che viene filtrato rispetto, per quella che è la mia esperienza, poi le parlo della mia esperienza, no? Filtrato da delle posizioni che poi appunto non sono quelle della realtà, per quella che è la mia esperienza, ripeto, un americano che la saluta con un'iperbole veramente gigantesca e poi gira le spalle e se ne va e non gliene frega assolutamente niente. Sì, io non sono uno tra quelli che hanno esaltato quel my friend di Obama a Berlusconi, però non sono nemmeno tra quelli che pensa così, che sia semplicemente un modo molto comune di salutare, ecco. Anche se fosse un modo molto comune di salutare, lo stesso fatto che Obama abbia utilizzato un'espressione così familiare è significativo, ma è significativo di un modo di fare di Obama, non di una stretta amicizia tra Berlusconi e Obama, per carità. Sì, volevo ricondurre, se posso, a un altro argomento. Sì, velocemente, che siamo in conclusione, sì. Dica. Diceva prima che le relazioni diplomatiche di alto livello sono quelle che poi permettono all'Italia di presentarsi all'estero con un certo tipo di forma, cioè Obama che saluta in un certo modo, è chiaro che deve seguire un protocollo, non potrà mai salutare Berlusconi, mettere Berlusconi e liquidarlo semplicissimamente. Sì. Però ecco, io le volevo dire che in sostanza quello che poi fa la relazione internazionale e quello che poi è il buono dell'Italia in termini di relazioni con l'estero non passa attraverso solamente Obama e le relazioni diplomatiche di alto livello, ma no, certo. Passa rispetto, molto più da vicino, rispetto a quello che è la visione che dell'Italia si ha dall'estero. E quindi questo le volevo dire... Sì, dall'estero da chi? In genere, io le parlo in genere. Beh, cioè, in genere, sa, certamente l'idea, bisogna vedere con chi si parla e quali sono gli interlocutori. Esatto, bravo, esatto, scusi, infatti la interrompo su questo, perché se lei considera... chiedere per esempio la carenza di capitale che ci sono in Italia, venture capital, cioè capitali di investimento, sì, sì, perché non vengono a investire, io parlo della mia esperienza personale, sì, sì, perché non vengono a investire in Italia? Perché forse non c'è da parte di chi investe una sicurezza di regole, una sicurezza. Oh, perfetto, questo è il punto fondamentale, questo non c'entra niente con la presenza di Berlusconi o con la, col cucù di Berlusconi, no, ma per dire, lei ha perfettamente ragione Andrea, perché non c'è tutto quell'investimento di venture capital di cui lei sta parlando? Perché evidentemente si preferiscono altri paesi. La devo liquidare questa sera perché vado velocemente, sarebbe interessante approfondire questo argomento. Alfredo da Roma, prego. Lei. Un flash, Alfredo, un flash. Flashissimo. Sì. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Volevo riprendere il saluto della Brambilla, il saluto in cui dalle fotografie si vede molto bene che alza la mano sempre tesa, mentre quella lì del padre è leggermente piegata. Forse si può dire che il suo è un vero saluto fascista, invece quello del padre no. E lei però, il problema di lei è che lei quando vuole minimizzare, minimizza. Che vuol dire? Che vuol dire? È una rappresentante, il fatto è molto grave, perché ho capito. È per una lei, rappresentante per lei è grave. Del governo. No, no, ma per lei è grave perché lei dà per scontato che quello sia un saluto romano. Se lei ha detto che non è un saluto romano, ci possono essere tante interpretazioni. Insomma, io penso che pensare che una persona in una cerimonia dei carabinieri faccia lì il saluto romano e si metta così quando sa benissimo che ci sono i fotografi sarebbe veramente una cosa da imbecilli. Assicuro che lo sia, non credo. Almeno questo, poi può essere capace o meno capace. Alfredo, la ringrazio. Questa sera devo chiudere qui. Elena D'Alecco, Enzo da Milano, Davide da provincia di Como e altri, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.